this was this. Sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ben trovati a questa terza puntata della seconda stagione di Soul Time su Radio Wombat. Vi ricordo, Soul Time va in onda tutti i mercoledì alle 19 e poi potete ascoltare la registrazione o podcast, che dir si voglia, dal giorno dopo, dal giovedì, massimo venerdì in poi, direttamente in streaming dal sito di Radio Wombat Firenze. Vi ricordo, radiowombat.noblogs.org. Iniziamo questa puntata come al solito con la musica. Vi introduco il primo brano, che si intitola Do You Still Love Me, cantato da Cookie Jackson, un grandissimo brano. Lorraine Cookie Jackson, una cantante R&B che a me piace moltissimo, della costa ovest degli Stati Uniti. Aveva una voce molto molto particolare, particolarmente riconoscibile, e ha registrato poca roba durante gli anni 60, non è arrivata a sforare i 70. Ha iniziato a lavorare appunto durante i primissimi anni 60 con il sassofonista Zeke Strong, proprio a Los Angeles, con il quale incise il primissimo brano Try Love. Incise appunto pochi brani, ma tutti di altissima, altissima qualità, davvero uno più bello dell'altro. Io vi propongo la sua seconda uscita su vinile, che si intitola appunto, come vi ho preannunciato, Do You Still Love Me. Ci ascoltiamo questo bellissimo brano di Cookie Jackson. Don't let me just tell me no, but whatever way, the wheat is gonna questa era Cookie Jackson con Do You Still Love Me. Il prossimo brano invece è di Maureen Gray. Maureen Gray è nato nel maggio del 1948 e scomparso nel 2014. È stato un cantautore americano particolarmente specializzato nel genere doo-wop e inoltre un chitarrista e un pianista. Nato appunto nel 48 a Manhattan, a New York, fece la sua prima apparizione in pubblico già all'età di 5 anni, proprio a New York, esibendosi all'interno di un piccolo musical, e all'età di 12 anni era già stabilmente un cantante all'interno di una chiesa battista nel New Jersey, all'interno della quale si esibiva con sua madre. Fu poi scoperto dal produttore e cantautore John Medora, con il quale iniziò a incidere i primi brani con la Counselor Records, come Today's the Days, Crazy Over You e tanti altri, raggiungendo anche una buona posizione in classifica con il singolo Dancing the Strand. Poi ha continuato la sua carriera registrando anche per la Mercury Records. Ha soggiornato per alcuni anni a Londra, in Inghilterra, dove ha registrato e collaborato con artisti come David Bowie, George Harrison e John Lennon. Quindi ve l'ho citato all'interno di questa breve discografia, di questi brevi cenni storici, Today's the Day, e ce lo andiamo ad ascoltare. Maureen Gray, Today's the Day. Today's the day, Maureen Green. Proseguiamo con la nostra selezione musicale qui a Soul Time e proseguiamo con Sydney Barnes, nato Sydney Alexander Barnes Jr., un cantante, cantautore e produttore americano. Attivo nella musica sin dagli inizi degli anni 60 con il Rotary Connection e soprattutto come scrittore per la Motown Records durante il periodo in cui la Motown si trovava provvisoriamente a New York, e ha collaborato durante la sua carriera con artisti del calibro di George Clinton, il Jackson 5, le Supremes e B.B. King. Tra l'altro Sydney Barnes è apparso su oltre 150 album e compilation. Barnes ha formato diversi gruppi durante la sua carriera e ha cantato in particolare anche con Marvin Gaye. ci andiamo ad ascoltare questo pezzo di Sydney Barnes che si intitola, vi chiedo un secondo, devo sistemarlo, eccolo qua, ci andiamo ad ascoltare questo brano di Sydney Barnes che si intitola I Heard on the Other Side, un grandissimo floor fillers per quanto riguarda le serate Norden. Con I Heard on the Other Side. E a proposito di floor fillers Norden, a questo punto direi di continuare con un altro floor fillers, letteralmente i riempipista. Ci ascoltiamo Little Richie con questo brano su etichetta Sound Stage del 1966, Little Richie, Just Another Heritage. Yesterday I was okay. Baby, I was alright. Oh, today, all the things I've searched for, I found another man on the house around. And it looks like, it feels like, you've got the earmarks. Oh, yeah, just another heartbreak for me. Oh, she's got somebody new. I know she's gonna give him the runaround. Oh, cause just the other day, one of her old loves got back in town. Oh, now my heart is in a tangle. The little girl's involved in another triangle. And it looks like, it feels like, it's got the earmarks. Oh, yeah. Thank you. grandissimo brano questo di Little Richie con Just Another Heartache. Proseguiamo con Ronnie Love o Ronnie Dobb, è stato chiamato in due modi differenti, infatti vi vado a spiegare il dettaglio di questo, di questa differenza nel suo nome. Ci andremo ad ascoltare di Ronnie Dobb Chills and Fever, probabilmente uno dei brani R&B di maggior successo della storia, sicuramente uno dei brani R&B di maggior qualità mai stampati. Il disco, la prima stampa di questo disco fu rilasciata a Detroit e appunto accreditato come Johnny Love. Quando poi la Dot Records acquisì i diritti per questo brano, la ristampò sotto il nome di Johnny Dobb, quindi appunto ristampata e ridistribuita dalla Dot Records, ebbe subito un grandissimo successo tra gli appassionati, e questo brano è sicuramente tra i maggiori responsabili della diffusione del linguaggio della musica soul di Detroit. Quindi ascoltiamocelo subito, il grandissimo Ronnie Love o Dobb, che dir si voglia, Chills and Fever. Chills and fever, oh, chills and fever, oh, chills and fever, chills and fever is what you give to me. But when you hold my hand, tell me that I'm the loving man. Kiss me and squeeze me tight, tell me, babe, you wanna love all night. I get, oh, chills and fever, oh, chills and fever, oh, chills and fever, chills and fever's what you give to me. When it's late at night and when you hold me tight, tell me that you love me so and you'll never, ever, ever let me go. I get a, oh, chills and fever, oh, chills and fever. Di Ronnie Dobb con Chills and Fever. Ci stiamo ascoltando molti molti brani degli inizi degli anni 60, quindi proseguirei così a dritto senza troppe chiacchiere con un altro brano dei primissimi anni 60, periodo di grandissimo fermento musicale e culturale negli Stati Uniti. Ci ascoltiamo questo brano su etichetta Brent, etichetta statunitense, brano del 1961. Ci ascoltiamo Carl Lester and the Showstoppers con When You See Me Hurt. When you see me climb, tears falling from my eyes. Oh, don't you know I'm trying, girl, just to make you realize. Carl Lester and the Showstoppers con When You See Me Hurt. Proseguiamo con un altro floor fillers assoluto per quanto riguarda il Northern Soul. Proseguiamo con gli Ad Libs con il brano Nothing Worse Than Being Alone. Gli Ad Libs sono stati un gruppo americano originario del New Jersey, attivo principalmente durante gli anni 60, ma in realtà proseguirono poi la loro carriera fino al 1981, ma agli anni 60 si risalgono i loro lavori principali e di maggior qualità. La loro caratteristica principale è ad avere una voce femminile come lead vocals e un doo-wop come backing. Raggiunsero un grandissimo successo nel 1965 con il singolo The Boy from New York City, brano che non solo scalò la Billboard per quanto riguarda l'R&B, ma arrivò addirittura all'ottavo posto negli Stati Uniti per quanto riguarda la musica pop, quindi nella classifica possiamo definire così principale. Dicevo, un loro floor fillers assoluto è quello che sto per spingere sul giradischi, è Nothing Worse Than Being Alone, The Ad Libs. Perfect. worse than being alone had lips. Proseguiamo con la nostra selezione ed andiamo a sentirci questo brano di Dean Barlow che si intitola Come Back. Dean Barlow ha inciso tantissimi dischi, tantissimi singoli con i The Crickets, era membro e voce principale dei The Crickets, con i quali appunto ha lavorato tantissimo sotto l'ala protettrice di Davis, che era appunto un grandissimo sostenitore del lavoro di Dean Barlow. Dopo aver lavorato con i Crickets e aver sottoscritto un importante contratto con la MGM, etichetta statunitense, nel 1953, sotto impulso di Joe Davis, appunto, Dean Barlow iniziò a incidere diversi brani da solista. Ci andiamo ad ascoltare questo brano da solista, appunto, di Dean Barlow, che si chiama Come Back. Come back, baby, come back. Come on back home, come back. I love you, baby, come back. Back home. Come back, I'm sitting and I'm sighing. Come back, cause I need you so. Come back, can't you hear me crying? Come back. Back home. Early in the morning, control. Hear me talking now. Come back. Come back, baby. Come back. Come on back home. Come back. I love you, baby. Come back. Back home. Come back. I'm sitting and I'm sighing. Come back. Cause I need you so. Come back. Can't you hear me crying? Come back. Back home. Back di Dean Barlow. Caratteristica principale della voce di Dean Barlow era l'estrema dinamica che possedeva. Infatti Joe Davis, durante le registrazioni di quello che può essere considerato sicuramente uno dei suoi cantanti preferiti, ha iniziato ad utilizzare una tecnica molto molto particolare, l'utilizzo di diversi microfoni, non soltanto uno, ma diversi microfoni direzionali, per riuscire a captare tutte le sfumature della sua voce, e poi venivano mixati, veniva lavorato e sommato il tutto in sala di mixaggio. Quindi passiamo a Patience Valentine, grandissima voce anche questa. Ci andiamo ad ascoltare, così, senza troppe presentazioni, questo brano del 1963 su etichetta Sar Records. Ci ascoltiamo If You Don't Come. If you don't come, well, you better call, or you're not gonna find me at home at all. Been waiting for your baby since a quarter to ten, but my hand's on the clock, have gone around again if you don't come. Well, you better phone, 'cause I'm tired of waiting at home alone. Your dinner getting cold and the night is so long, and I get to wondering if you're doing me wrong. You know I love you, baby, and I know that you're mine, but I think you should come home. But you don't come. Well, you better call, 'cause I have an invitation that is 6 feet tall. You know that I've been faithful and I treat you so good. So appreciate me, baby, just knock on wood. You know I love you, baby, and I know that you're mine, but I think you should come home a little earlier sometimes if you don't. Just a knock on wood. If you don't come, you better call. If you don't come, you better call. If you don't come, you better call the Patience Valentine. Così, ragionando e sistemando un po' di musica tra un brano e l'altro, nel brano precedente a questo parlavamo di Dean Barlow e di Joe Davis, direi di andarci ad ascoltare, così come collegamento molto molto al volo, un disco su etichetta Joe Davis. Ci ascoltiamo questo brano di Roger Washington, un cantante non molto conosciuto, che anche lui non ha inciso tantissimi brani, ma quelli che ha inciso li ha fatti molto molto bene. Una voce molto semplice, ma che ha realizzato davvero dei gran bei lavori, in particolare nella sua New York intorno agli anni 60. Vi propongo questo brano quindi su etichetta gialla, stampata Joe Davis, Roger Washington, You Are Too Much. Hello girl with the big brown eyes, honey you make my temperature rise. When you cuddle up so close to me, I get a feeling that overpowers me. Too much, you're too much now, baby, too much. Hello girl with the pink shoes on, you're the class girl that yours alone. Great big eyes and a teeny weeny waist, hip shaking mama, say the taste. You're too much, oh, oh, too much now, you're too much now. Hello girl with the bright red lips, you're the one that I would love to kiss. I spend my money every cent on you, ain't no gamble, you know what to do. You're too much now, oh, don't you know, you're too much now, yeah, yeah, you're too much now, hey, too much, you're too much, babe, you're too much. Great big eyes, messing up my mind, you're too weak. E questo era Roger Washington con You Are Too Much. Dando un'occhiata all'orologio, a occhio e croce, minuto più, minuto meno, ci rimane il tempo per un paio di brani. Ce li ho qui già davanti e direi che concludere la puntata in bellezza. Il penultimo brano è dei The Chants, un gruppo vocale di 5 elementi dell'area di Liverpool, o meglio, proprio di Liverpool, precisamente del quartiere 8, zona di Toxteth, una zona totalmente isolata dal resto della città. Per dare un'idea, all'epoca poteva essere considerata una sorta di Harlem, dove la comunità nera era abbastanza isolata ma molto molto unita, che andava fiera delle proprie radici e influenze culturali all'interno di questo contesto britannico si formano i The Chants. E diciamo, appunto, influenzati ovviamente tantissimo dalla musica R&B statunitense, iniziarono ad esibirsi nel 1963. Le loro influenze principali in realtà erano Johnny Otis, Little Richards and the Miracles soprattutto. Cosa molto molto particolare, i The Chants nacquero sotto l'ala protettrice dei Beatles. Infatti il membro fondatore dei The Chants, Joe Ankara, andò durante un concerto dei Beatles ed ebbe modo di fare una chiacchierata con Paul McCartney, che concesse al gruppo un'audizione e ne rimase letteralmente folgorato. Infatti iniziò una collaborazione con i Beatles, i The Chants ebbero modo di aprire diversi concerti proprio al gruppo inglese, i Beatles appunto. Quindi direi di ascoltarci questo brano spettacolare, davvero davvero bellissimo, dei The Chants, che si intitola Dick Tracy, probabilmente il loro brano più conosciuto. The Chants, Dick Tracy. Oh, oh, Dick Tracy. He's got a bulldog jowl. Dick Tracy. Why he's the armor allow. Dick Tracy. Well, if you prove what they say, crime doesn't ever pay. Yeah. Now, who's the guy who always seems to get his man? He's tough enough to catch a bullet with his hand. He doesn't have to sweat to get him, you know. He gets him with his two-way radio. Dick Tracy. He's got a bulldog jowl. Dick Tracy. Why, he's the arm of the law. Dick Tracy. Well, he can prove what they say. Touchables, they're brave and bold. But look at them, you wouldn't think they'd catch a cold. But when Hemlock Holmes is leading them, there's just no doubt. For criminals, it's Roger Dodger over and out. Dick Tracy, he's got a bulldog jaw. Dick Tracy, why, he's the arm of the law. Dick Tracy, well, he can prove what they say. Mexicali, a jumping bean. He's got a friend jiu-jitsu who's just 1 foot tall. But though he's kinda short, he's really on the ball. Dick Tracy, he's got a bulldog jaw. Dick Tracy, why, he's the arm of the law. Dick Tracy, well, he can prove what they say. Crime doesn't ever pay. Yeah. Crime doesn't ever pay. Yeah. The Chants con Dick Tracy. Quindi ci rimane il tempo per un ultimo brano e direi di concluderlo con le Marvelettes. Quindi passiamo dai The Chants inglesi torniamo all'R&B, al doo-wop e al soul più classico con le Marvelettes, questo gruppo in attività negli anni 60 che fu il primo gruppo femminile di grande successo per quanto riguarda la Motown Records, particolarmente celebre per il loro primo singolo Please Mr. Postman, di cui si ricorda addirittura una cover dei Beatles, quindi rimaniamo sempre in tema Beatles, anche se in questa trasmissione ovviamente non li ascoltiamo mai, una cover dei Beatles del 1963 che raggiunse il primo posto in classifica nella Billboard negli Stati Uniti. Nel corso della loro carriera, le Marvelettes, una carriera che in realtà durò veramente poco, dal 1960 al 1969, ebbero ben 19 singoli nella top 40. Per chiudere questa puntata di Soul Time, vi faccio ascoltare quello che è uno dei miei brani preferiti delle Marvelettes, che si intitola Beachwood. Io vi rinnovo l'appuntamento con mercoledì prossimo per la prossima puntata di Soul Time, e vi ricordo che è ascoltabile il podcast dal sito, ogni qualvolta va in onda una puntata, uno o due giorni dopo al massimo viene caricato il podcast o la registrazione della puntata andata in onda, quindi se vi siete persi la diretta potete ascoltare il podcast su radiowombat.noblogs.org. Vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per mercoledì prossimo alle 19 e vi saluto con le Marvelettes con Beachwood. Ciao a tutti e a tutte.